fasti ottomani, ambizioni esagerate, cinismo geopolitico? Ma quanta benzina c'è nel serbatoio di Ankara? Oggi il mondo secondo Erdogan. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci. Turkish President Erdogan has been called the Sultan of 21st century Turkey. Turkey wants to be powerful. It wants to revive its national pride. I'm not going to give you a question. You are fake news. I hear a sound of victory. Ota! Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. La squadra, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, oramai lo conoscete, il numero per porre domande e commentare i temi di quest'oggi via SMS e via WhatsApp. Social, Facebook, Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Dalla Libia al Caucaso, fino in Siria, ma anche Nord Africa, Mediterraneo orientale, Ankara allarga sempre di più la sua influenza. Il suo più grande freno? Forse proprio l'amico nemico Putin. Di questo parliamo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, complice la strettissima attualità che ci offre un gancio parecchio interessante, perché Mike Pompeo e l'amministrazione Trump hanno dato il via libera alle sanzioni contro la Turchia per l'acquisto di quei famigerati sistemi missilistici russi S-400. La Turchia, membro della NATO, si dota di un sistema missilistico sostanzialmente anti-NATO. Da qui partiremo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Non prima, naturalmente, di aver sfogliato i nostri dossier internazionali. Il primo ci fa tornare ancora una volta nel Sahara occidentale e lo facciamo perché abbiamo letto un interessante editoriale pubblicato da Foreign Policy, un editoriale di fuoco firmato da John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale, lo ricorderete, silurato dal presidente in carica Donald Trump, autore del libro The Room Where It Happened, la stanza dove tutto accade, uno sguardo piuttosto approfondito sui meccanismi decisionali della quasi passata amministrazione Trump. Prima di arrivare però a questo editoriale di fuoco, vi faccio sentire ancora una volta la voce di Jason Guberman, ve l'ho proposta anche ieri, è direttore esecutivo dell'American Sephardi Federation, organizzazione no profit che si occupa di supportare le attività religiose e culturali della comunità ebraica sefardita in America. Ricorderete, è stato dato il via libera all'introduzione della lingua e della cultura ebraica nelle scuole marocchine. Ma è parte del piano di normalizzazione dei rapporti fra Israele e Marocco? Quantomeno la tempistica è sospetta. Sentite cosa dice Guberman. La curiosa tempistica dell'introduzione del nuovo corso di studi e dell'annuncio della normalizzazione sembrano certamente sospetti, ma molto probabilmente si tratta di una coincidenza. Entrambe le decisioni devono essere interpretate nel corretto contesto marocchino. In primo luogo, Marocco e Israele hanno rapporti da decenni. La decisione di Mohammed VI di ristabilire relazioni diplomatiche formali e di dare nuovo impulso alla cooperazione culturale, tecnologica e imprenditoriale si basa su questa esperienza di perseguimento di valori e interessi condivisi. Anche il corso di studi ha una sua storia, che fa riferimento a passi precedenti, come l'inaugurazione reale di Baidakara, ovvero la Casa della Memoria a Essaouira, l'anno scorso. Il filo che collega entrambi, il corso di studi e la normalizzazione, sono i 900.000 ebrei sefarditi marocchini che vivono in Israele e che non hanno mai esitato a sostenere Allah, Dio, Al-Watan, la nazione e il Malik, il re. Per molti ebrei marocchini, il riconoscimento statunitense della sovranità marocchina sul Sahara è motivo di festeggiamenti, tanto quanto la normalizzazione delle relazioni con Israele. Così Jason Guberman dall'altra parte dell'oceano, dagli Stati Uniti, osserva e giudica, bolla, quello che è l'accordo di normalizzazione e però ha fatto una menzione, il fatto che per molti ebrei marocchini è una gioia anche il riconoscimento statunitense della sovranità marocchina sul Sahara. Ecco, ricominciamo proprio da questo aspetto, perché secondo molti osservatori il diritto all'autodeterminazione del popolo Sahrawi è stato assolutamente immolato in nome di una mossa improvvida, e a dirlo è anche John Bolton. Biden, nell'editoriale pubblicato su Foreign Policy, Bolton, dice che Biden deve invertire la rotta sul Sahara occidentale. Il sottotitolo del pezzo recita: il riconoscimento da parte di Trump della sovranità marocchina mina pericolosamente decenni di politica statunitense attentamente elaborata. Al di là che si potrebbe disquisire quanto attentamente elaborata sia stata la politica statunitense nel Nord Africa, e comunque al di là degli strali usuali ormai di Bolton lanciati su Trump, è interessante come si suggerisca un immediato cambio repentino di rotta all'amministrazione Biden sul Sahara occidentale. Il punto, secondo Bolton, è che questa decisione è stata presa senza sapere intanto cosa sia e dove sia il Sahara occidentale, senza rispettare le risoluzioni dell'ONU. Peraltro si scaglia anche contro l'inutile supporto ONU di questi lunghi anni, ma senza consultare i Sahrawi, né la Mauritania e nemmeno l'Algeria. Insomma, una decisione erratica nel pieno stile Trump, così dice Bolton, che secondo lo stesso ex consigliere per la sicurezza nazionale può portare a enorme instabilità in tutto il Nord Africa. Ci spostiamo di area, di settore, andiamo in Iran, lo facciamo virtualmente, così come virtualmente si sono parlati i diplomatici di altissimo rango di Iran, Regno Unito, Francia, Germania, Russia e Cina per discutere dello stato del piano di azione congiunto globale, cioè l'accordo sul nucleare iraniano. Il cambio di amministrazione statunitense potrebbe dare nuovo impulso a nuove consultazioni. Sostanzialmente quelle di oggi, ad alto livello, ma diplomatici, quindi non ministri, non sottosegretari, dovranno preparare il tavolo negoziale a successivi colloqui. Lo ricorderete, l'accordo sul nucleare iraniano, concordato, siglato a Vienna il 14 luglio 2015, poi la dipartita degli Stati Uniti e poi anche l'Iran, che ha deciso di non rispettare più tutte le limitazioni sull'arricchimento del uranio. Staremo a vedere, potrebbe essere un primo passo, anche perché sia il presidente Hassan Rouhani sia il neoeletto Biden si sono dichiarati disposti entrambi a tornare al piano di azione congiunto. E poi vi do aggiornamenti su quella incredibile storia del rapimento nello stato di Katsina, nord-ovest della Nigeria, di almeno 333 studenti. Un funzionario statale nigeriano ha detto che almeno 17 di quelli rapiti da Boko Haram sarebbero stati ritrovati dalle forze di sicurezza. Lo stesso funzionario ha detto che almeno 2 sono morti durante quella stessa operazione di salvataggio. Secondo il governatore dello stato di Katsina, Aminu Masari, il maggior numero degli studenti rapiti si trova nella foresta di Zamfara, in una provincia vicina. Sono in corso sforzi per salvarli, il territorio è particolarmente complesso anche per le addestrate e avvezze a quei territori truppe nigeriane. Mentre il numero dei ragazzi rapiti rimane ancora poco chiaro, le fonti ufficiali dicono 320-333, i residenti di Kankara, dove è avvenuto il sequestro, parlano di almeno 500 studenti che sono mancati all'appello. Perché continuiamo a aggiornarvi su questa storia? Perché per la prima volta Boko Haram si affaccia nel nord-ovest, ma sono anche chiare le modalità con cui sostanzialmente l'organizzazione jihadista ha subappaltato in qualche modo il rapimento, coinvolgendo 3 bande locali criminali che fanno a capo a individui ben noti alle forze dell'ordine, che avrebbero compiuto l'azione in nome e per conto di Boko Haram e che ragionevolmente avranno anche ricevuto adeguato compenso. E infine l'ultimo dossier che vi sottopongo, che campeggia qui nelle scrivanie in redazione, riguarda le relazioni diplomatiche tra Somalia e Kenya. C'è una crisi in corso fra i due importanti paesi africani. Il governo somalo sta richiamando il suo personale diplomatico dal Kenya e ha dato 7 giorni ai corrispettivi, agli omologhi keniani, prima di lasciare Mogadiscio. Sostanzialmente Dube, che è il ministro dell'informazione somalo, ha accusato Nairobi di interferire con gli affari interni della Somalia. La spaccatura segue che cosa? Un altro schiaffo, se volete, in salsa diplomatica. La visita di Musse Bihi Abdi, il presidente dell'autoproclamato Somaliland indipendente, lunedì scorso a Nairobi, che evidentemente Mogadiscio ha visto in qualche modo come uno scavallamento anche delle relazioni diplomatiche. Dobbiamo ricordare che il Kenya è fortemente interessato alla Somalia, alla sua stabilità, che una diaspora molto molto grossa di somali vive a Nairobi e non solo, e che Nairobi stessa è stata colpita, nonché altri territori keniani, proprio delle incursioni di Al-Shabaab, che è la minaccia terroristica, un movimento islamista che è nato dalle ceneri delle corti islamiche e continua a minacciare la stabilità dell'intera regione. E lo stesso Kenya ha un contingente molto nutrito all'interno dell'AMISOM, che sono sostanzialmente i caschi verdi, quelli dell'Unione Africana, che dovrebbero garantire la stabilità e la vita direi sopravvivenza a questo punto, al fragile governo somalo. Questi sono i nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo che diventeranno le prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso il ritratto del protagonista della puntata di oggi, visto da Valeria Bernardi e Valentina Ternullo. Turkish President Erdogan has been called the Sultan of 21st century Turkey. He wants to be the father of a new Turkish identity. Buna dayanarak çıkardığımız bir cumhurbaşkanlığı düzenlemesi. Sulla base della decisione del tribunale, con un decreto presidenziale, abbiamo fatto in modo che Santa Sofia tornasse a essere una moschea. Böylece Ayasofya. Libya'ya asker gönderimi konusunda ise siamo pronti a mandare altre truppe in Libia. Libya tarafından. Macron'un zihinsel noktada. Qual è il problema di questa persona che si chiama Macron con l'Islam e i musulmani? Macron ha bisogno di una cura psichiatrica. Anlamıyor. La Grecia sta rivendicando la sovranità marittima attraverso l'isola di Meis, che è a soli 2 chilometri dalla costa turca. E sapete quanto dista quest'isola dalla Grecia? 580 chilometri. È una cosa inspiegabile. Tutta l'aggressività, la muscolarità delle ultime mosse di Recep Tayyip Erdogan, il presidente turco. Vi do un paio di aggiornamenti che saranno un po' il punto di partenza in questo viaggio, che Nessun Luogo è Lontano. La prima notizia arriva da Atene, ne dà notizia appunto l'agenzia Nova. La Grecia sta per stanziare 5,5 miliardi di euro per il suo programma di riarmo militare. È un aumento del 57% rispetto al 2019. Riflette naturalmente la necessità di Atene di porre un freno alle velleità turche, soprattutto nel Mediterraneo orientale. Per riorganizzare la flotta, ma anche l'aviazione, Atene si sta affidando moltissimo alla Francia, ma non esclude anche rapporti contrattuali di fornitura di armi con gli Stati Uniti, tra i Rafale e gli F-16 rispettivamente. E il capo del governo greco ha detto: mai prima un programma militare così complesso e importante è stato sviluppato così rapidamente ed efficacemente. Segno che il tempo stringe e anche la Grecia, se non con il supporto dell'Unione Europea, vuole far qualcosa. La seconda notizia strettamente di cronaca ci arriva dagli Stati Uniti, perché dopo vari ammonimenti Mike Pompeo ha deciso di mettere la quinta, e cioè passa le vie di fatto e annuncia sanzioni contro l'agenzia governativa di Ankara che si occupa dell'acquisto di armamenti. Anche qui parlavamo di armi, ma parliamo di quei controversi, contestati sistemi missilistici S-400 fabbricazione russa, sistemi che poco si amalgamano con i sistemi di difesa e di attacco della NATO, di cui Ankara è evidentemente un membro molto molto importante. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano, Valeria Talbot, analista di ISPI, co-capo del progetto in Medio Oriente. Talbot, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, io direi, se è d'accordo, di partire proprio da queste sanzioni statunitensi minacciate da Mike Pompeo alla Turchia. Sono decisamente un segnale, però abbiamo la strana sensazione, però ci sconfessi se non è così, che è come se la comunità internazionale, nella fattispecie solo gli Stati Uniti, reagissero alla sintomatologia, cioè andassero a curare i sintomi di questo disegno egemonico turco, come se non avessero la lungimiranza di andare a abbracciare la cosa nel suo complesso, a vedere la presenza in Libia, la presenza in Somalia, nel Caucaso, la Siria, eccetera, eccetera, e poi andare avanti così. È come se curassero semplicemente il sintomo e non prendessero una posizione un pochino forse più strutturata e più lungimirante. Non so se è d'accordo. Valeria Talbot di ISPI. La Turchia è stata particolarmente attiva nello scacchiere mediterraneo e medio orientale negli ultimi anni, dalla Siria alla Libia al Mediterraneo orientale. E questo le è stato anche permesso che c'è una, diciamo, un indebolimento da un lato di altri attori, di tradizionali attori nell'area, da un lato l'Unione Europea a causa delle sue divisioni interne con politiche nei confronti dell'area diverse e agende politiche, interessi diversi, dall'altro anche da una riduzione della presenza degli Stati Uniti, anche degli interessi degli Stati Uniti nell'area, che più che agire in alcuni casi si sono trovati a reagire o a lasciar fare agli altri. Forse con l'amministrazione Biden qualcosa cambierà, anche se c'è una linea di continuità nella politica statunitense nei confronti della regione. Quanto alla Turchia, ricordiamoci che rimane un importante alleato nella lotta al terrorismo nella regione, nella gestione dei rifugiati. Per quanto riguarda l'Europa, è un importante partner economico, per cui anche l'Europa, se vogliamo, si trova in alcuni casi come nel Mediterraneo orientale, a reagire piuttosto che ad agire con stati membri che avrebbero voluto adottare sanzioni più efficaci, sanzioni economiche nei confronti della Turchia nel corso dello scorso Consiglio europeo. Altri paesi, tra cui appunto Germania, Italia, Spagna, con posizioni più dialoganti, quindi anche lì si è adottato un po' una via di mezzo, rimandando al prossimo Consiglio europeo di marzo. Come se appunto in questi mesi si trovasse una soluzione magica, che probabilmente non c'è, se non c'è neanche una politica europea unitaria nei confronti della Turchia. Mi piace molto l'approccio, il punto di vista come sempre efficace di Valeria Talbot di ISPI, reagire piuttosto che agire, una posizione passiva per cui a un certo punto i grandi attori internazionali si trovano di fronte a fatto compiuto, sta qua forse anche nelle grandi intuizioni della politica estera di Erdogan, mosse apparentemente ardite, azzardate anche dal punto di vista di dichiarazioni che dal punto di vista diplomatico sarebbero forse da cancellare dai manuali, eppure costringe sempre alla risposta, come se appunto la comunità internazionale, Valeria Talbot faceva riferimento giustamente anche all'Unione Europea nella sua timidezza, non potesse che semplicemente replicare. Però le propongo una provocazione, Talbot, e le faccio sentire la voce di Andrei Kortunov, l'abbiamo fatto sentire a lungo proprio ieri, al direttore del Russian Council, che ci racconta delle strane relazioni tra Mosca e Ankara, e la domanda sarà proprio questa: ma se il freno più efficace alle forse eccessive aspirazioni egemoniche di Ankara fosse proprio Mosca? Partiamo da Kortunov, che va sostanzialmente a definire questa strana luna di miele o di fiele, fate un po' voi insomma, tra Putin e Erdogan. Ascoltiamo insieme. Well, I think that it is a fragile relationship. If you put aside, you know, all this, you know, natural. Credo che quella tra Mosca e Ankara sia una relazione fragile, se si esclude la dimensione commerciale, turistica ed energetica. Ma diciamo che questi sono campi di cooperazione standard. Dal punto di vista geopolitico, invece, la cooperazione dipende principalmente dallo stretto rapporto che caratterizza i due leader. Sono però entrambi molto ambiziosi e ognuno ha i propri progetti, non solo in Medio Oriente, ma anche in altre parti del mondo. Putin intende mostrarsi come il baluardo delle forze conservatrici e tradizionali in lotta contro il globalismo, rivendicando un ruolo da grande potenza per la Russia. Erdogan sta guardando oltre il Medio Oriente, cercando di affermarsi come leader di tutto il mondo sunnita. Questo però lo porta in netta competizione con i sauditi. Ci sono quindi diverse possibilità di conflitto tra i due paesi, perché le rispettive ambizioni possono a volte coincidere, ma spesso scontrarsi. L'attuale situazione nella regione di Idlib, nel nord-ovest della Siria, non può durare per sempre. Se prendiamo seriamente l'importanza dell'integrità territoriale della Siria, prima o poi questo enclave o exclave, a seconda di come lo si considera, deve tornare sotto il controllo del regime di Damasco, a prescindere da chi ci sia al potere. L'equilibrio in Libia è molto delicato. delicato e potrebbe rompersi in qualsiasi momento. Rispetto al Nagorno-Karabakh, ci sono molti a Mosca che non sono affatto contenti di vedere la Turchia avvicinarsi tanto ai confini russi. Ora, i due leader hanno accettato di non andare d'accordo e qualche volta cercano di riconciliare qualche contraddizione. Personalmente sono preoccupato per una potenziale escalation. Erdogan vuole mantenere la relazione privilegiata con Putin, ma allo stesso tempo intende conservare l'importante rapporto che la Turchia ha con l'Occidente. Vuole dialogare con Biden e vuole ottenere il massimo che può dall'Unione Europea. Essenzialmente vuole avere un piede in due scarpe. Putin, dal canto suo, può spendere parole lusinghiere per Erdogan, ma deve tenere conto che molti in Russia sono sospettosi nei confronti della Turchia e delle aspirazioni di Ankara in politica estera nel lungo periodo. L'approccio neo-ottomano di Erdogan si allontana radicalmente dall'eredità kemalista e molti a Mosca lo considerano un motivo di preoccupazione, quindi la relazione è molto fragile. Fin qua tutto bene, ma sicuramente è necessario che i due paesi risolvano i molti punti critici del loro. Spero solo di non vedere nel 2021 un'altra crisi da Turchia e Russia. Yet another crisis or yet another escalation between Russia and Turkey. La voce del direttore del Russian Council, Andrei Kortunov, che sostanzialmente va a replicare un messaggio molto acuto di un ascoltatore al 349-238-6666, utilizzando la stessa espressione, un piede in due scarpe. L'ascoltatore scriveva: la Turchia del sultano Erdogan sta abilmente tenendo il piede in due scarpe tra NATO e Russia. Lui diceva, Kortunov, Stati Uniti, vabbè, e vorrebbe metterlo anche in Europa. 349-238-6666, c'è un'altra sollecitazione. Anzi, su Facebook qualcuno ci chiede: ma quanto ammontano gli interessi europei in Turchia? Secondo vari dati, prendo quelli dell'Istituto di Statistica turco, e sono dati riferiti al 2019, l'interscambio commerciale con l'Italia, la sola Italia, 14.8 miliardi di dollari, 7,1 miliardi di esportazioni italiane, e sostanzialmente l'Italia è il quinto partner commerciale della Turchia, secondo tra i paesi europei dopo la Germania. Questo per darvi una dimensione che è importantissima, quella economica, e tanti imprenditori che lavorano e fanno commercio, e non solo con la Turchia. Valeria Talbot, incombe la borsa, la risposta mi sa che è articolata, perché descrivere questa strana relazione tra Mosca e Ankara e stabilire se sarà Mosca a tirare il freno a mano di Ankara, credo che ne avrà bisogno di qualche minuto, per cui le propongo, andiamo a sentire i mercati finanziari e poi con calma mi risponde. Nessun luogo è lontano. Erdogan, a mio parere, sta giocando col fuoco da ogni lato. Se finisse per isolarsi sarebbe la fine per lui, almeno politicamente. Così uno dei tanti messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Proprio di questo stiamo parlando, ascoltatrici e ascoltatori, della politica turca nel Medio Oriente allargato, sostanzialmente, perché sono tanti teatri, fino al Caucaso, nei quali Ankara si sta impegnando. Complice due notizie di cronaca: una fortissima ascesa della spesa militare greca in funzione evidentemente antiturca mediterraneo orientale, e poi l'avvio, il via libera alle sanzioni da parte degli Stati Uniti per quell'improvvido, secondo molti, acquisto del sistema missilistico S-400 da parte della Turchia. Ma la domanda per Valeria Talbot, analista di ISPI, esperta di Turchia, a capo del progetto sul Medio Oriente, è quanto Mosca possa essere un freno alle aspirazioni egemoniche di Ankara. Abbiamo visto in questi anni, dalla Siria alla Libia, che Mosca è un freno nella misura in cui è l'unico attore con cui la Turchia è dovuta scendere a compromessi per portare avanti i propri interessi in questi teatri di crisi. È l'attore a cui la Turchia ha chiesto un tacito placet per poter intervenire militarmente per ben tre volte in Siria. Sì. Ed è anche l'attore con cui ha negoziato un cessate il fuoco ad Idlib lo scorso marzo. Quindi comunque rappresenta un attore importante. Andrei Kortunov parlava di una relazione fragile, io aggiungerei anche complessa, che si svolge appunto tra competizione e cooperazione in un delicato equilibrio, sì, dove le criticità sono dietro l'angolo. Attenzione però a non affidarsi alla Turchia nel frenare le ambizioni di Ankara. Alla Russia, sì. Alla Russia, sì, alla Russia. Soprattutto a non spingere anche ancora di più nell'abbraccio con Mosca, perché l'interesse della Russia è quello di allontanare la Turchia dai suoi alleati occidentali. La strategia proprio russa nell'area è quella di indebolire in primis gli Stati Uniti attraverso l'indebolimento dei legami, delle relazioni con i suoi tradizionali, certo, alleati, certo. E lo stiamo vedendo con la Turchia. State ascoltando la voce, l'analisi e il commento di Valeria Talbot di ISPI, poco prima di lei la voce di Andrei Kortunov, che peraltro è stato una direttore Russian Council, una delle voci più ascoltate ai Mad Dialogues organizzati proprio da ISPI e dalla Farnesina nei giorni scorsi. C'è un passaggio interessante, Kortunov dice a un certo punto: l'ambizione a diventare leadership nel mondo sunnita, questa è una delle ambizioni di Turche. Quanto è credibile questo aspetto? Quanto va in rotta di collisione con i paesi del Golfo? Mi sembra un po' un'ambizione, come dire, un po' esagerata, ecco, un poco sostenibile nel lungo periodo, ecco. Ma la Turchia diciamo, ha una forte aspirazione che non è dei giorni nostri, ma da quando l'AKP, il partito di Erdogan, è salito al potere, di giocare un ruolo di potenza regionale. E il suo attivismo, il suo assertivismo nei vari contesti di crisi della regione lo dimostra. Questo attivismo si inserisce in un più ampio gioco, in una più ampia competizione a livello geopolitico per l'influenza regionale. Sì. La Turchia è un attore importante che si va a scontrare però con gli interessi, le ambizioni, aspirazioni di altri attori, in primis l'Arabia Saudita e il suo alleato principale, gli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di una competizione sicuramente geopolitica, geostrategica, in cui però non è da sottovalutare la componente ideologica, quindi il ruolo, un ruolo di leadership nell'Islam sunnita che fino ad oggi è stato giocato dall'Arabia Saudita. Solo che nell'ultimo decennio è emerso anche sempre in maniera più preponderante un altro tipo di Islam, l'Islam politico, quello diciamo portato avanti dalla Fratellanza Musulmana, sì, contrastato dall'Arabia Saudita ma supportato dalla Turchia e dal suo principale alleato regionale, il Qatar. Quindi anche questa componente ideologico-religiosa si inserisce nella competizione più ampia a livello geopolitico. E in questo si inserisce anche, potremmo dire, la conversione di Hagia Sophia in una moschea, sì, che nella volontà di Erdogan sembra voler riportare appunto un importante simbolo religioso come riferimento di un Islam sunnita alternativo a quello wahhabita portato avanti dall'Arabia Saudita. E Valeria Talbot di ISPI aggiunge un altro fronte ai tanti teatri, quelli più strettamente fisici, sui quali Ankara si gioca l'egemonia da qualche tempo a questa parte, e aggiunge giustamente quello religioso, anche con conversioni apparentemente solo simboliche, ma che poi portano Ankara, come raccontava giustamente, in rotta di collisione con altri attori un po' più distanti nel mondo musulmano, in particolare sunnita. Grazie mille Valeria Talbot per essere stata con noi. Buona giornata e alla prossima. Grazie a voi. Un po' di messaggi al 349-238-6666. A Erdogan interessa solo espandersi, così scrive Roberto. La sua posizione di dichiarata barriera al terrorismo è solo di facciata. Ricordo che in Siria è alleato insieme all'ISIS, all'esercito siriano ribelle contro Assad, al solo scopo di spostare al sud il suo confine. Beh, alla fine lo ha fatto con quella fascia di protezione di parecchi chilometri, addirittura all'inizio doveva essere di molti meno, poi l'ha estesa col beneplacito evidentemente di Mosca. Qualcun altro invece fa la lima a quanto possa essere affidabile un partner come la Turchia, che dice di gestire il problema migratorio, si fa dare i soldi, parecchi miliardi all'Unione Europea, e poi ha una gestione che alcuni definiscono a colabrodo, perché ogni tanto i flussi, come no, ritornano e sono importanti, dalla costa turca fino alle isole greche. Ci sono tanti messaggi al 349-238-6666, ma a questo punto stiamo parlando di Turchia, è il caso di andare lì. Lo facciamo con la voce di Murat Yeşiltaş, docente alla Ankara Social Sciences University e analista per il SETA, che è un think tank con base ad Ankara. Lo ha raggiunto Andrea Macchioni, gli ha fatto sostanzialmente la stessa domanda fatta a Kortunov, cioè quanto può durare la luna di miele tra Putin e Erdogan. Sentite cosa dice l'analista e l'accademico turco. Turkey's relations with Russia is an interesting example to see how Turkish foreign policy has been transforming. La relazione tra Turchia e Russia è un esempio interessante di come la politica estera di Ankara si sia trasformata dal 2015, dopo l'abbattimento del caccia russo da parte della contraerea turca. Sicuramente c'è stato un avvicinamento tra le due parti. E credo che la Russia stia utilizzando a suo favore il turbolento rapporto che la Turchia ha con l'Occidente. In Siria è evidente come Turchia e Russia siano state capaci di lavorare assieme, specialmente nel contenere l'allargarsi del conflitto nel paese. Questo non significa necessariamente che Mosca e Ankara siano in accordo su tutta la linea, ma stanno cercando di trovare dei compromessi, compartimentando le problematiche che si trovano ad affrontare. Questo approccio a compartimenti sta funzionando nel contesto di Idlib, ma ci sono ancora molti punti critici, dato che mentre Mosca è convinta che i gruppi nella regione siano una minaccia alla sicurezza siriana, Ankara sta cercando di gestire la situazione per prevenire che la crisi migratoria si riversi anche oltre il proprio confine. Dal punto di vista geopolitico, possiamo dire che Turchia e Russia non condividono le stesse visioni rispetto alla Crimea, all'Ucraina o alla Libia. Ma in un modo o nell'altro cercano sempre di trovare un compromesso per contenere potenziali escalation. Credo quindi che nel prossimo futuro Turchia e Russia manterranno l'approccio a compartimenti nella gestione delle loro relazioni. Ciò nonostante, il futuro approccio di Biden in politica estera sarà molto importante nella gestione delle relazioni bilaterali tra Mosca e Ankara. Se la politica estera degli Stati Uniti sarà particolarmente aggressiva, questo metterà a repentaglio i rapporti tra Turchia e Russia. Se invece Biden deciderà di cooperare sul piano multilaterale, Mosca e Ankara saranno facilitate a risolvere i problemi nei diversi quadranti in cui sono impegnate. La voce di Murat Yeşiltaş, Ankara Social Science University e SETA, think tank di base appunto in Turchia. 349-238-6666, tra i vari messaggi. Mosca e Ankara giocano e ci prendono in giro, evidentemente, omette. Forse voleva usare un'espressione un po' meno elevata. Comunque la Turchia, se non viene fermata con sanzioni, sarà un problema. Questo è uno dei messaggi arrivati al 349-238-6666. Lasciamo le strade di Ankara, andiamo a sentire come se la sta passando, che è in macchina, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, ve lo anticipo. Andiamo in Libia. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. L'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano, forse il quadrante, il teatro più importante, almeno dal punto di vista italiano e quello che ci riguarda più da vicino, il teatro libico. Lì la quinta marcia ingranata da Ankara ha sottratto anche sfera di influenza all'Italia. Che cosa ha fatto la Turchia in Libia e cosa è pronta a fare? Lo ricapitoliamo in 90 secondi. Nel novembre 2019, la Turchia e il governo di accordo nazionale guidato da Fayez al-Sarraj hanno firmato accordi per la cooperazione militare e la demarcazione dei confini marittimi, in base ai quali Ankara si è impegnata a fornire a Tripoli armi e combattenti stranieri per contrastare l'avanzata della Libyan National Army, l'esercito del generale Khalifa Haftar. Secondo l'ultimo rapporto trimestrale sul terrorismo in Africa, redatto dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e pubblicato lo scorso luglio, la Turchia avrebbe inviato almeno 3.800 mercenari siriani in Libia nei primi tre mesi del 2020 e un numero sconosciuto di militari turchi. Secondo indiscrezioni, però, in territorio libico sarebbero presenti almeno 1.500 tra militari turchi e contractors appartenenti alla Sadat, società privata che si occupa di sicurezza, operativa principalmente in Medio Oriente e accusata di lavorare alla creazione di un esercito privato fedele al presidente Tayyip Recep Erdogan. Il numero dei mercenari siriani ingaggiati da Erdogan per combattere al fianco del governo di accordo nazionale guidato da Fayez al-Sarraj nella guerra contro il generale Khalifa Haftar potrebbe essere ragionevolmente molto più alto, tenendo conto dei nuovi afflussi di mercenari avvenuti tra aprile e maggio. Secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, infatti, sarebbero almeno 15.300 i siriani presenti sul territorio, fra cui molti minori. Attualmente la Turchia ha a disposizione tre basi aeree in Libia, quella di Al-Watiya, quella di Misurata, controllata parzialmente insieme all'Italia, e quella di Mitiga. La scorsa settimana Erdogan ha ottenuto l'approvazione parlamentare per prolungare di 18 mesi la presenza turca in Libia, in barba all'accordo del Comitato Militare Congiunto sulla rimozione di truppe e mercenari stranieri. In Libia, Erdogan ha tutto l'interesse che il governo di Sarraj vinca contro Haftar, anche per riuscire a recuperare gli investimenti miliardari, stimati intorno ai 20 miliardi di dollari, che le sue imprese di costruzione avevano fatto nel paese prima della caduta di Gheddafi. E poi c'è il futuro di Ankara in Libia, perché recentemente i membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU hanno approvato una dichiarazione sulla Libia in cui chiedono il ritiro di tutti i combattenti stranieri e mercenari dalla Libia. Sarà davvero così? Sentite cosa dice Murat Yeşiltaş dell'Università di Ankara. Principally, Turkey is supporting UN-based initiative in Libyan political process. La Turchia supporta l'iniziativa delle Nazioni Unite in Libia e Ankara rispetta il cessate il fuoco e la legge internazionale. La questione dei mercenari in Libia è un tema importante. La Turchia non è impegnata nel paese con dei foreign fighters e la presenza di Ankara nel paese è regolamentata da accordi presi con il GNA nel pieno rispetto della legge internazionale. Per quanto riguarda i mercenari siriani, non credo che l'apparato di sicurezza libico accetterà la loro presenza dopo che Haftar è stato sconfitto nella cosiddetta campagna di Tripoli. Credo infatti che il GNA non abbia bisogno di nessun tipo di mercenari. Al contrario, però, la Turchia è preoccupata dalla presenza di foreign fighters, supportati dall'Egitto e dagli Emirati, nelle fila dell'esercito di Haftar, perché minano al processo di pace avviato nel paese. Processo di pace che, assieme al processo di riunificazione politica promosso dalle Nazioni Unite, riceve il pieno supporto della Turchia. Il racconto e l'analisi di Murat Yeşiltaş è un analista e un docente accademico Università di Ankara, che dice anche, non abbiamo tempo di farvelo sentire, che gli interessi economici sono tanti e sono corposi. L'abbiamo fatto commentare anche però le sanzioni contro la Turchia, alleato e membro della NATO, che arrivano dagli Stati Uniti. Sentite cosa dice. Of course this decision is not a surprise for Turkish strategic community. La decisione presa dall'amministrazione statunitense non sorprende. È però doveroso sottolineare che il motivo che ha spinto Ankara ad acquistare gli S-400 è la necessità di proteggere il proprio spazio aereo, principalmente in relazione al conflitto in Siria, ma anche in relazione al cambiamento delle dinamiche di sicurezza nella regione. Nel potenziale acquisto del sistema difensivo, la Turchia è stata guidata da tre elementi. Prima di tutto, il prezzo. In secondo luogo, il trasferimento di un certo tipo di tecnologie e di know-how. E infine, i tempi di consegna. Purtroppo, nessuna di queste tre prerogative venivano rispettate dagli Stati Uniti o da altri alleati NATO. Ankara, quindi, spinta dall'esigenza di trovare un sistema difensivo appropriato e in tempi rapidi, si è rivolta a Mosca. Bisogna anche sottolineare che la Turchia ha ripetutamente chiesto agli Stati Uniti la fornitura dei Patriot, ma Washington ha rifiutato la commessa senza proporre nessuna alternativa. Ora sembra quindi esserci una nuova crisi tra Turchia e Stati Uniti, ma Ankara sta cercando di risolvere la disputa proponendo alcune alternative. In primo luogo gli S-400. La Turchia si impegna a utilizzarli come un sistema a sé stante, separato dai sistemi radar della NATO. Sembra però che gli Stati Uniti non accettino neanche questa opzione. In secondo luogo, la Turchia ha proposto di formare un gruppo tecnico con il fine di discutere se ci siano realmente problemi tecnici nell'adozione degli S-400 e se realmente questo sistema non sia compatibile con altri sistemi difensivi NATO. Credo quindi che nel 2021, con l'insediamento dell'amministrazione Biden, entrambe le parti inizieranno a negoziare una soluzione al problema e sono convinto che troveranno un accordo. Probably, to my understanding, they will agree one way or another to solve this problem. La voce e l'analisi di Murat Yeşiltaş, che alcuni ascoltatori al 349-238-6666 bollano come governativo. Ascoltatrici e ascoltatori, stiamo parlando della Turchia, è un think tank turco, è un'università turca, forse non devo aggiungere altro. Però sono contento, forse abbiamo aggiunto un tassello di conoscenza anche quest'oggi. Tutti hanno il diritto di avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Per cui torniamo domani a raccontare, raccontare e raccontare. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto, alla squadra e Nessun Luogo. Ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.